cantarli, corriamo, vogliamo le nozze compir, corriamo, vogliamo le nozze compir. Pian piano, mi fretta, la curva m'aspetta. Pian piano, mi fretta, un dubbio tuo niente, mi fia di partire, mi fia di partire.